Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo a parlare del DL Semplificazioni, che domani su cui è stata messa la fiducia al Senato e domani la votazione, più che altro sui temi di questo DL, ma che hanno anche, al di là della parte concreta, hanno anche un lato di carattere politico, perché c'è stata uno scontro, una trattativa molto dura su alcuni emendamenti, parte dei 5 Stelle, parte di Italia Viva, parte del PD, e alcuni osservatori fanno notare che non è, diciamo, un bel esempio di quello che potrebbe capitare a metà ottobre, quando il governo dovrà presentare almeno le linee guida e quindi la cornice di riferimento all'Europa, per poi presentare i piani definitivi a inizio gennaio sull'utilizzo del Recovery Fund, quindi dei soldi che da parte spettante all'Italia sono tra prestiti e fondo perduto, circa 209 miliardi. Lo dico perché, insomma, c'è stata appunto molta lotta e anche qualche tensione all'interno delle varie commissioni. Il nodo ha riguardato soprattutto la rigenerazione urbana, e quindi la sburocratizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione equiparati a mere ristrutturazioni edilizie, nei centri storici, le cosiddette zone omogenee A, restano però i vincoli. C'era una posizione molto distinta tra l'EU e i DEM e il PD. Poi c'è l'edilizia sociale, basterà la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio di interventi edilizi che riguardano scuole, università, residenze per studenti, ospedali, strutture sportive e di edilizia sociale. È chiaramente il decreto al cui interno, perché c'era l'allegato anche sul rilancio dell'Italia, quindi Italia Veloce, è il decreto che deve servire a semplificare soprattutto gli interventi di edilizia urbana, comunque gli investimenti infrastrutturali anche di carattere urbana. Ne parleremo nella seconda ora del programma. In apertura alcune notizie che riguardano da un lato l'economia di carattere internazionale, dall'altro domani e come ogni anno Focus Economia sarà in diretta da Cernobbio, dove si aprono i lavori della tre giorni dello studio Ambrosetti, e quindi in versione chiaramente modificata, quindi molti interventi degli ospiti di gran peso, anche di carattere internazionale, saranno interventi in video e non in presenza fisica. Prevista la presenza fisica di vari esponenti politici, per esempio il leader della Lega Matteo Salvini, il segretario del PD Zingaretti, il ministro dell'economia Gualtieri e, da confermare ancora, adesso ne parleremo, la presenza del presidente del Consiglio Conte. Chiaramente un workshop Ambrosetti che si svolge nella massima incertezza possibile sugli scenari futuri dell'economia, non solo quella internazionale ma anche quella europea e italiana. E parleremo poi della vicenda Atlantia, o meglio cosa è successo dopo il consiglio di amministrazione. Il titolo ieri era salito moltissimo su un'ipotesi, diciamo, di scorporo vantaggiosa per Atlantia. Oggi il titolo cala, non perde il guadagno di ieri. Ieri è arrivato a guadagnare oltre il 15%, 16%, oggi perde il 4,70%. Visto che cito Atlantia, cito anche il resto della borsa, che complessivamente cede l'1,33%, mentre Francoforte perde l'1%, Parigi lo 0,30%, Londra meno 0,60%, Dow Jones meno 1,80%. Tra i titoli, oltre ad Atlantia, a cedere c'è anche Steamicroelectronics meno 6,5%, Di Assorin meno 5,5%, Fineco meno 5%, Nexi meno 3,70%, Biper meno 3,30% come Buzzi Unicem. Fronte opposto, Pirelli più 2,30, Telecom più 2, Exor più 1,70, Fiat più 1,5, Tenaris più 1,1, Eni più 1%, euro su dollaro a quota 1,18 e 36 349 238 6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Dopo la crisi, dice l'OCSE, oggi si afferma potrebbe esservi un'opportunità per una maggiore uguaglianza economica e maggiori investimenti sull'ambiente. Adesso vedremo, sono dichiarazioni diciamo abbastanza generiche in questo modo. Dagli Stati Uniti invece arriva un dato sulle richieste di sussidi sulla disoccupazione, sono calate a 881.000, il dato è migliore delle attese. Perché gli analisti scommettevano in 950.000 richieste. Sempre dagli Stati Uniti però arriva la notizia che il gruppo automobilistico Ford prevede di tagliare 1.400 posti di lavoro entro fine anno negli Stati Uniti. E venendo invece all'Europa, oggi il dato riguarda l'andamento a luglio delle vendite al dettaglio e quindi il commercio. Luglio è stato il mese in cui in tutta Europa sono arrivate le misure di allentamento rispetto alle misure di contenimento legate al Covid-19. Il volume delle vendite al dettaglio comunque è diminuito dell'1,3% nell'area euro rispetto al mese precedente, mentre a giugno era aumentato del 5,3%. Se raffrontate però rispetto a un anno prima, le vendite al dettaglio nell'area euro sono salite dello 0,4%, dello 0,7% nell'intera Unione Europea. Questo è un buon dato, poi vedremo se verrà consolidato, perché comunque si riferisce a un raffronto con il luglio 2019, quindi anche se in rallentamento rispetto a giugno, quando vi era stato un boom vero e proprio di vendite al dettaglio, complice appunto le chiusure nella maggior parte degli esercizi commerciali a maggio, aprile e marzo, comunque è importante notare che rispetto a un anno prima c'è un leggero segno positivo nelle vendite al dettaglio nell'area euro. Allora, per quello che riguarda invece, abbiamo commentato l'andamento dell'indice PMI, cioè dei responsabili degli acquisti a livello europeo, perché vedeva l'Italia avere il dato di crescita più alto e sopra i 50 punti che, come abbiamo spiegato due giorni fa, segnalano la differenza tra recessione sotto i 50 punti e espansione economica. Oggi è arrivato anche quello francese, dove però c'è un calo da 57 a 51,6 punti, soprattutto per anche il settore terziario, cioè i servizi, da 57 a 51 punti, sempre sopra il livello diciamo di espansione. In Italia è sceso anch'esso contro i 52 punti e mezzo di luglio a 49 punti e mezzo. Gli analisti si aspettavano un dato stabile, non è una bella notizia, perché siamo sotto appunto il livello di 50 punti, calo molto forte anche per l'indicatore che riguarda i responsabili degli acquisti del settore servizi, da 56 a 47 punti. Allora, per quello che riguarda invece altri dati italiani, oggi l'ABI ha diffuso un aggiornamento sui finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia, che hanno superato a ieri 75 miliardi di euro, 1.034.000 domande, di cui 860.000 domande hanno riguardato la fascia dei 30.000 euro, quelli dove c'è una garanzia al 100% dello Stato, per 17 miliardi. I restanti 140.000 le restanti 140.000 domande riguardano invece il resto, cioè la parte più alta del finanziamento, quindi fino a 1 milione, poi fino a 5 milioni di euro, e quindi sono 140.000 domande, ma che rappresentano circa 60-58 miliardi. Allora, al di là della Camera che ha approvato il DL Covid, che adesso passa al Senato con appunto 219 favorevoli, contrari 126, è il decreto che estende fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e va a prorogare anche le disposizioni contenute nei decreti legge 19 e 33, quindi le misure per contrastare l'epidemia e poi anche l'eventuale loro allentamento. Sappiamo che c'è stato uno scontro con un mancato voto di una parte dei deputati di 5 Stelle per il rinnovo, la polemica sul rinnovo dell'incarico del direttore dei servizi di informazione e sicurezza dei servizi segreti. Andando avanti però, per quello che riguarda invece altre iniziative del governo, faccio notare che oggi il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha detto: beh, stiamo elaborando un piano importante sul lavoro per far riprendere le assunzioni, ma soprattutto i temi che devono essere frutto di investimenti sono sviluppo, ricerca e formazione, e si sta puntando a una detassazione per spingere al rinnovo dei contratti. Però insomma, altre notizie su questo non abbiamo. Invece sul Recovery Fund il ministro dello sviluppo economico Patuanelli la prossima settimana convocherà i sindacati. E a proposito dei sindacati, oggi il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha detto: c'è una leggera ripresa ma non sappiamo se sarà duratura, e ci sono un insieme di settori pesantemente colpiti e siamo di fronte a un quadro internazionale che ci indica una situazione difficile, che stiamo chiedendo al governo che ci coinvolga. Allora, vedo alcuni messaggi e poi ne commenterò sulla proposta. Ho visto anch'io, mi sembra che fosse un tweet del ministro ai trasporti De Micheli, che ipotizzava anche un ponte sullo stretto ciclabile. Io non perderei tempo su queste cose. Invito anche il ministro a parlare anche delle infrastrutture più urgenti, il completamento di molte opere in questo paese. Non buttiamo sempre la palla, per carità, il ponte sullo stretto ciclicamente questo paese torna fuori, ma finiamo le opere già, e poi ne parleremo a proposito del DL semplificazione, le opere già cantierate o quelle già progettate. Non mi sembra di estrema urgenza il ponte sullo stretto, mi sembra più importante completare l'alta velocità al sud, se dovessi scegliere sicuramente la Napoli-Bari, e iniziare e chiudere l'alta velocità al nord. Dopodiché l'attraversamento del ponte, cioè dello stretto in bicicletta, ecco, lo lascio così ai miei nipoti, ai figli, a chi potrà vedere magari un domani sul benedetto ponte. Mi sembra che il paese abbia qualche urgenza in più, e tra l'altro sarei interessato a sapere anche dal ministro De Micheli che ne pensa dell'attuale assetto e situazione che sta prendendo la vicenda Atlantia, di cui parleremo fra un attimo. Allora, ancora due notizie in breve. Per quello che riguarda Biper, la BCE ha dato via libera a Biper per rilevare le 532 filiali in eccesso da Intesa San Paolo, e come effetto dell'integrazione previsto dell'integrazione tra Intesa e UBI e Banca, dopo che l'OPAS, l'offerta pubblica di acquisto e scambio, è andata a buon fine. Sempre sul fronte del mercato, in questo caso sempre bancario, il Monte dei Paschi ha collocato un bond, un'obbligazione a 10 anni con un'indicazione di rendimento all'8,5% da 300 milioni di euro. Forte la domanda, oltre 1 miliardo, e quindi nessun problema a collocare l'obbligazione. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Sarà, dicevo, domani una edizione di Villa d'Este di Cernobbio a Cernobbio come ogni anno, la seguiamo, alcuni criticano il workshop Ambrosetti, dicono che, però noi abbiamo sempre ottenuto anche spunti, analisi, visioni interessanti. Dico che sarà una versione molto molto diversa, non tanto per il cosiddetto panel, cioè chi è stato invitato a intervenire e a parlare, ma perché molti ospiti, soprattutto di carattere internazionale, saranno in collegamento in remoto, da un lato, e dall'altro perché anche il numero di le presenze sono state contingentate. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La 46esima edizione che si apre domani, Focus Economia sarà in diretta appunto da Cernobbio. Lo scenario di oggi, di domani, per le strategie competitive è il, diciamo, la cornice su cui si svolge, entro cui si svolge ogni anno l'appuntamento del European House Ambrosetti. Nonostante appunto i vincoli sanitari, se ho ben capito, viene riconfigurato l'evento diventando digital, cioè in parte fisico e in parte digitale. In remoto saranno in collegamento Hillary Clinton, Ban Ki-moon, Emmanuel Macron, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Mario Monti, Yi Kang, Ilaria Capo, Giuseppe Sala, e invece saranno presenti fisicamente dal punto di vista internazionale il Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire e poi Klaus Regling, cito facendo anche qualche violenza, Joseph Borrell. Sul fronte invece italiano, dal punto di vista politico, Matteo Salvini, Roberto Maroni, ma anche Paolo Gentiloni, Elsa Fornero, Carlo Cottarelli, Corrado Passera. Per quello che riguarda la rappresentanza, diciamo così, del governo, vi sarà il ministro Nunzia Catalfo, il presidente del Consiglio dovrebbe essere confermato sabato, se ho ben visto, quindi Giuseppe Conte, il ministro Paolo Di Micheli, il ministro Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, il ministro Roberto Gualtieri, il ministro Paola Pisano e il ministro Luciana Lamorgese. E allora siamo in collegamento con chi fa gli onori di casa come ogni anno, e quindi l'amministratore legato del European House Ambrosetti, Valerio De Molli. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Ma che pimpante che è. Ma c'è solo lei a questo punto a Cernobbio, tutto in collegamento. Senta, no, in realtà devo fare l'errata corrige a quanto dica. Lei ha appena detto. Abbiamo abilitato dosi massicce di tecnologia, ma non solo in videoconferenza, avremo grandi protagonisti che compariranno in sala Cernobbio in ologramma. E quindi la partecipazione sarà basata su tre dimensioni: una fisica, abbiamo 110 persone fisicamente presenti qui a Villa Vecchia Cernobbio nella tradizionale e storica cornice che lei conosce molto bene, essendone uno dei co-protagonisti da tanti anni. Avremo abilitato centinaia di CEO che parteciperanno da tutto il mondo in videoconferenza con un programma immersivo di videoconferencing abilitato dai tecnici di Cisco, che sono partner tecnologici dell'iniziativa. Avremo 8 hub internazionali che raggruppano alcune decine di partecipanti a New York, a Shanghai, a Bruxelles, a Madrid, in altre capitali del mondo, a New Delhi per esempio, e poi avremo queste partecipazioni tridimensionali in ologramma che compariranno nella sala dei lavori e renderanno mitico e misterioso l'edizione della Cernobbio 2020. Allora, l'ologramma un po' mi inquieta, magari fra un po' anche i conduttori saranno in ologramma, però De Molli, le chiedo un attimo di pazienza che ho il meteo e la pubblicità, poi vorrei capire, appunto mi interessava la parte organizzativa perché chiaramente con quello che leggiamo organizzare un evento del genere con la presenza fisica non è facile, però poi vorrei capire quanto diventa difficile parlare di scenario di oggi e di domani, in un periodo in cui non so neanche se navighiamo a vista, navighiamo a piccolissimo cabotaggio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la risposta dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. minuti, diceva Valerio De Molli, amministratore delegato degli European House Ambrosetti, che domani appunto inaugurerà i lavori del, come ogni anno, del workshop Ambrosetti. Al di là della difficoltà logistica, ho capito questa cosa dell'oleogramma, che per carità è sicuramente una soluzione, ma come si fa a ragionare, glielo dico senza non in maniera polemica, ma come si fa a ragionare dello scenario di oggi, di domani, nel momento in cui abbiamo uno scenario che cambia quasi di ora in ora, per usare la vostra definizione? Cioè, il vostro appuntamento è sempre stato un momento di riflessione, avete sempre avuto i numeri uno di tantissime aziende nel mondo dei servizi, nel mondo manifatturiero, partecipate dallo Stato o grandi gruppi privati, esponenti politici di primo piano a livello europeo e internazionale, primi ministri, presidenti di banche centrali, ex primi ministri, che tendevano, diciamo, a dare la loro visione sul futuro. Ora però, insomma, come dicono i ragazzi, il futuro non è più quello di una volta. È proprio così, dottor Barisoni, il futuro non è più quello di una volta, mi piace la sua battuta, però ci tengo a sottolineare un aspetto e ho voluto dare un segnale forte, perché sarebbe stato estremamente facile dire: signori, scusateci tanto, c'è un clima difficile, complesso, rinviamo tutto, ci rivedremo quando si potrà. Ma non sarebbe stata la scelta più giusta e non ho voluto confondere il facile con il giusto. E quindi ho ritenuto più che mai importante convocare la nostra audience, la classe dirigente, gli esponenti principali del mondo dei media, della politica, della business community nazionale e internazionale, come da abitudine, proprio perché questo particolare momento storico, delicato, incerto, complesso, imprevedibile, ci carica ancora di più di responsabilità verso quella che è la missione e finalità storica della mia iniziativa: offrire alla classe dirigente italiana e internazionale elementi indispensabili per anticipare gli scenari del futuro e elaborare le strategie vincenti. Ed è proprio degli scenari che dobbiamo parlare. E più aumenta l'incertezza, più io devo essere in grado di simulare scenari alternativi, fare delle ipotesi, immaginare un futuro migliore e diverso. Ed è questo grande frullatore che vogliamo aprire. L'ologramma evidentemente è un gadget, è un modo per far vivere l'esperienza in modo diverso, tecnologicamente avanzato, immersivo. Non è quello il fatto distintivo, diciamo, certo, dell'organizzazione dell'anno. È un segnale di cambiamento, un segnale di innovazione. E io credo che più che mai in questa epoca la tecnologia che si fonde con il talento darà i risultati migliori. Senta De Molli, voi avete lo schema, lo dico per chi non lo sapesse, classico, in cui il venerdì si affrontano i temi di carattere più internazionale ma anche scientifico, e quindi sostenibilità ambientale, poi si stringe il sabato sui temi, anche come ospiti, dico non solo sui temi, di carattere europeo, e la domenica, fino alla metà domenica, quindi la domenica mattina, è dedicata alla politica italiana. Lei teme che, diciamo, vista anche la scarsa capacità di definire un futuro, di capire quello che ci c'era e si c'era all'orizzonte, il rischio poi sia di precipitare tutto a discussioni di politica? Siamo sotto campagna referendaria, sotto campagna per le regionali, tensioni anche dell'altro governo, cioè che si perda la visione un po' più alta, mettiamola così. Beh, è vero, dottor Barisoni, questo rischio oggettivamente c'è, ma è il rischio di ogni momento storico del paese, insomma, di guardare troppo l'ombelico e il breve termine senza una visione forte di lungo termine, di orizzonte. e noi quest'anno sarà un anno record da tanti punti di vista, non solo per le implicazioni del Covid, ma anche sul piano del livello e la quantità e la qualità dei contenuti. Presenteremo 12 grandi lavori di ricerca scenariale che vogliono proprio spostare l'attenzione sui grandi scenari, i grandi orizzonti, le grandi decisioni da prendere che hanno impatto sulle generazioni future. È di questo che ci dobbiamo preoccupare. 7 governi parteciperanno, 5 commissari europei di cui il vicepresidente. Le do un'anticipazione che non abbiamo ancora rivelato a nessuno. Ci ha scritto Papa Francesco un messaggio di indirizzo dei lavori che vuole proprio sottolineare uno spirito diverso da mettere nelle discussioni. Lo faremo leggere al presidente Enrico Letta domani mattina in apertura. Non è mai successo nei 46 anni di storia del forum di a ricevere questa attenzione, di cui sono estremamente orgoglioso. Quindi siamo di fronte a un momento storico da ogni punto di vista. Lei dice giustamente: attenzione, perché c'è il rischio di strumentalizzare il referendum, le elezioni amministrative in tante regioni, in 6 regioni, eccetera. È vero, ma noi cercheremo di tenere la palla alta. Poi sono presenti tutti gli uomini politici importanti. No, ma non è che li può obbligare lei. L'altro rischio, esatto, l'altro rischio che vedo, De Molli, è invece di carattere più generale. Intanto ci confermi se è vero che da quel poco che si è capito di quello che potrebbe essere il portato, cioè quindi le conseguenze di questa crisi pandemica e poi gli effetti che ha avuto sull'economia, c'è molta attenzione e molto interesse su due elementi che non sono in contraddizione, anzi. Da un lato la sostenibilità ecologica, la sostenibilità ambientale, che voglio dire era presente anche prima che scoppiasse il Covid, ma tutto un insieme di ragionamenti la rendono e di valutazione la rendono ancora più stringente. Dall'altro il tema della digitalizzazione. Vuoi lockdown, vuoi diciamo, quello che sta ancora, di cui si sta ancora discutendo, tutti hanno capito che l'investimento in digitale non è più un optional, non è più una scelta, diventa un po', come dicono gli inglesi, una commodity, cioè un bene necessario che devi avere. Un must, però io non amo molto gli inglesismi. Vorrei capire, secondo lei, si arriverà a qualcosa di concreto, al di là della formula un po' retorica, bisogna rendere l'economia più sostenibile e bisogna investire in digitalizzazione? Guardi, io sono molto convinto di sì. Le dico sì ad alta voce e urlando, nel senso che non dimentichiamocelo. Non è solo la politica, non è solo il governo responsabile di indirizzare il cambiamento. Molto è nelle mani, è nella testa, nelle risorse, nella capacità, nel talento degli imprenditori, dei manager, dei dipendenti, delle straordinarie realtà industriali e di servizi di questo paese. Noi, come The European House Ambrosetti, primo think tank privato del paese, cerchiamo di rappresentare un esempio. Nel nostro piccolo insignificante mondo, diciamo, signori, si può andare avanti con iniezioni massicce di tecnologia, innovazione digitale e talento. E quindi ci proviamo. E ognuno nel suo ambito, nel suo mestiere, che faccia prodotti o che faccia servizi, deve trovare strade nuove e diverse e farlo con entusiasmo, perché questo è il DNA degli imprenditori, del fare impresa. E questo lo vogliamo provare ad affermare, non perché scriviamo un eccellente paper e di solito i nostri documenti sono i più apprezzati, ma perché lo applichiamo in prima persona, lo mettiamo in pratica. Lei parlava di smart working. Beh, nella riduzione generale di presenza a Cernobbio non solo abbiamo ridotto del 70% i presenti, aumentando poi le partecipazioni remote, come le dicevo in apertura della sua bella trasmissione, ma anche noi nel nostro gruppo di lavoro eravamo soliti gestire la macchina complessa di Cernobbio con 90 colleghi. Oggi ne abbiamo portati 45 qui fisicamente e altrettanti lavorano in remoto dalle loro abitazioni per supportare il team operativo, che è ovvio che deve essere presente fisicamente in loco. No, ma io parlavo di smart working pur essendo molto, molto non scettico, anche scettico su come lo stanno raccontando alcuni, apro e chiudo una parentesi, cioè, secondo me un cambiamento epocale come quello che potrebbe portare una maggior flessibilità sul lavoro con una maggiore presenza del lavoro a distanza, non lo puoi trattare così come se solo fosse una comodità, perché stai per rivoluzionare, destrutturare un modello di sviluppo che poi può piacere o non può piacere, che vedeva nei centri urbani, nei centri direzionali anche un luogo molto importante di smistamento non solo delle idee ma anche del lavoro. Beh, non puoi trattarlo con così tanta leggerezza, perché processi così strutturali e oserei dire quasi rivoluzionari necessitano di tempo. Non si può decidere da un momento all'altro che l'80% dei dipendenti restano a casa come se fosse così un benefit, come diciamo concedere l'automobile o il telefonino. È un'altra cosa, cambi il profilo delle città, cambi e creerai morti e feriti nel mondo del commercio, cambi profilo anche di come devono essere pensate le nostre città. Ci vuole a mio avviso un po' più di tempo, però sì. Le chiedo un'ultima cosa che forse è quella più perniciosa. Allora, voi nel corso degli anni, insomma tanti anni che vi seguiamo, così come altri appuntamenti, non voglio fare paralleli perché sono due cose molto diverse, penso anche a Davos, avete sempre rappresentato, se mi passa il termine, soprattutto nell'immaginario, un po' un emblema della globalizzazione, no? La globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta in questi 20 anni, diciamo dal 96 in poi, in questi 24 anni. Un insieme di persone, direbbe Bauman, viaggiatori che condividono gli stessi valori, che uno venga dal Giappone, dall'Asia, dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, che hanno responsabilità o di governo o hanno responsabilità del governo economico, quindi sono manager di grandi imprese o sono stati nel passato leader politici. Lei non teme che, diciamo, questa Cernobbio possa essere o la prima di un nuovo mondo o l'ultima del vecchio mondo globalizzato? Cioè, voglio dire, come può immaginare un cambiamento anche per il vostro appuntamento, se, ammesso che lei lo ritenga, con il Covid si è definitivamente chiusa una globalizzazione che già era andata in crisi nel 2008 e 2009? Ma prima di tutto non credo in una crisi di un modello di sviluppo che ha portato, non dimentichiamolo, e questo è un fatto appostato nel mondo, a grande diffusione della ricchezza. Io cito solo un dato: pre-Covid, quindi alla fine 2019, gli abitanti del pianeta Terra sotto la soglia di povertà erano, meno dati della Banca Mondiale, erano scesi sotto il 10%. 25 anni prima erano la metà della popolazione della Terra. Quindi questo è il fatto più evidente. Poi lei mi potrà dire: sì, ma attenzione, perché sono aumentati i divari, sono aumentati le complessità, soprattutto nelle grandi poli urbani, nelle grandi metropoli, uh-huh, nell'Occidente, grandi. È vero, ma non dimentichiamoci. Aspetta, che sto un attimo perdendo. La sto perdendo. Grazie. Mi sente? No, perché qua. Io la sento. Abbiamo ancora collegamenti, diciamo, analogici, non virtuali. Ecco, adesso la sento meglio, prego. Mi sente meglio. Dicevo quindi che c'è stato un enorme progresso sul pianeta che ha portato a una ricchezza diffusa importante. Adesso stiamo vivendo una fase di arresto di questo processo forzato, obbligato, che evidentemente dobbiamo rispettare, e non sarà breve, ne usciremo gradualmente. Ma io non voglio dire non c'è problema, appena arriva il vaccino back to normal. È stata una lezione shock che porterà molte filiere globali del valore anche a ridisegnare i propri processi. Noi abbiamo un ufficio molto attivo in Cina, a Shanghai, con 20 persone per esempio. Abbiamo censito tra le imprese italiane presenti 2500 imprese che sono nostri clienti in quella parte del mondo, chiedendo loro: ma volete, state considerando o no progetti di reshoring, cioè di ritornare esatto, di ripatriare o in Europa o in Italia nello specifico? e alcune filiere, quelle più sensibili ad eventuali shortage produttive, a eventuali interruzioni della produzione, stanno tutte valutando seriamente almeno graduali e parziali reshoring. E quindi noi abbiamo contato un 15% di realtà che lo sta affrontando sul piano serio, ma non perché c'è dietro un'ideologia della globalizzazione, perché c'è dietro il senso pratico di un imprenditore che valuta rischi e opportunità e decide in conseguenza. No, ma io dico, certo. No, mentre tutti, e finisco, mentre tutti gli altri business che al contrario si sono localizzati per servire nuovi mercati, questi non rimarranno globali. Punto. No, ma io, no, si figuri. Ma io non sto dicendo che sarà la fine della, cioè, della globalizzazione, però che ci sia un processo in corso, lei ce lo sta confermando appunto con questo dato sulle vostre aziende a Shanghai, che ci sia un processo di deglobalizzazione, diciamo così. E quindi ne parlavamo anche due giorni fa affrontando il tema dell'automotive, cioè le filiere del valore molto lunghe, il fatto che tu andassi a comprare componentistica per poi assemblarle, magari facevi oppure un semilavorato in posti molto distanti, complice anche quello che è successo con il Covid e con il lockdown, sta facendo riflettere molti sulla necessità di avere forse filiere un po' più corte. Che sia corretto, che sia reshoring, cioè che un ritorno a casa, ritorno diciamo sulla costa natia, o che sia invece un ritorno solo in Europa, magari non in Italia, però il processo. Questo mi aspetto che possa capitare, e sarà diverso settore da settore, realtà da realtà, e ognuno lo valuterà sulla base di implicazioni economiche. Quindi questo ce lo possiamo aspettare, ma di sicuro non dovremo aspettarci, io credo, un ribaltamento del modello di sviluppo, ma non per ideologia, non per schieramento acritico di parte, ma per senso pratico, perché è stato quello che ha portato ricchezza diffusa e crescita e progresso in tutto il mondo, e dovrà continuare a farlo, certo non a scapito delle filiere più fragili, non a scapito dei più poveri, ma con un nuovo modello di crescita e sviluppo che toccherà il tema appunto della sostenibilità. Non a caso il titolo del mio intervento di apertura domani mattina alle 8:30, anche qui le do un'altra ulteriore anticipazione, sarà come trasformare la crisi in una opportunità per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Quindi le linee guida di una nuova globalizzazione, oltre al digitale, alla tecnologia e al talento, come dicevo prima, è inclusività e sostenibilità. Sì, sono d'accordo. Secondo me vi sarà poi una riflessione anche sul molto più pragmatica, molto più breve, però anche sulla fetta di economia che può dipendere dall'export, e lo dico perché la poca crescita che vi è stata in questi anni in Italia è stata principalmente dovuta all'export, e vale ancora di più per la Germania. Però quando poi tu ti rendi conto che un eccesso di esposizione sui mercati esteri ti rende molto fragile di fronte a eventi imprevisti, forse la riflessione che sta avvenendo anche a livello europeo è di avere un mercato interno, quindi consumi interni un po' più solido, e quindi avere una quota di export, sì, importante, ma forse ci siamo dimenticati un po' troppo sul modello tedesco della quota dei consumi interni, e lì ci vorranno però politiche anche di altro genere, quindi per far ripartire i consumi servono investimenti, politiche salariali e occupazione. Comunque, in bocca al lupo per questo stranissimo, nuovo modo di fare il workshop Ambrosetti, che aprirà domani. Grazie a Valerio De Molli, amministratore delegato di European House Ambrosetti. Allora vedo molti messaggi sul tema del quello che si chiama smart working, insomma lavoro a distanza. Dunque, alcuni sono di carattere ambientale. Continuiamo con questo modello socio-economico che sta distruggendo il pianeta. Infatti mi sembra che la riflessione sulla sostenibilità vada proprio in quella direzione, cioè mantenere una crescita che però sia sostenibile. Attenzione alla decrescita. Dove sono tutti i seguaci di Latouche che mi dicevano anni fa che si poteva vivere meglio con la decrescita? Ce l'abbiamo la decrescita, meno 10% del PIL quest'anno. Non vedo tutta questa felicità in giro. Così come invito chi mi sta massacrando, dice: ah, allora per lei la crescita, la crescita economica significa traffico, smog, malattie del sistema respiratorio. Io non ho detto, uno mi ha scritto, io non ho detto che non si debba ripensare anche al modo in cui è distribuito il lavoro nei grandi centri urbani e il rapporto tra centro e periferie, il lavoro a distanza, quello che le tecnologie permettono di fare. Potremmo fare puntate intere, tirare in ballo anche gli psicologi del lavoro. È la stessa cosa lavorare da casa o no? Rischiamo nuove forme di schiavismo? Faccio notare che i luoghi di lavoro in questi 100 anni perlomeno erano sicuramente più equi come stabile, come servizi che davano rispetto alle case. Voglio dire, la differenza tra, diciamo, l'ufficio del capo e l'ufficio della segretaria è molto minore delle volte, come per lo stabile in cui lavorano, rispetto alla differenza tra la casa della segretaria e la casa del capo. Quindi io ho anche un timore che si creino nuovi divari sociali con uno smart working forzato, cioè con le persone lasciate a casa a lavorare a casa, perché chi è benestante o ha un ruolo alto avrà case più grandi, maggiore agio, e chi ha un reddito più basso e ha un ruolo nell'azienda più basso lavorerà in ambienti più, diciamo, difficili, mentre tendenzialmente c'era più equità nel luogo di lavoro. Ma soprattutto quello che io, su cui invito a ragionare alcuni ascoltatori, è che questi processi, decidiamo anche che improvvisamente si vuole arrivare a un 30-40, non l'80% di adesso, ma un 30-40%, bene, questi processi vanno accompagnati. Non è che improvvisamente possiamo dire ai tassisti, ai ristoratori, agli albergatori, ai baristi, ai fruttivendoli, a tutto quello che ruota attorno, diciamo, alle zone commerciali dei luoghi di lavoro: ragazzi, chiudete. Cosa ne facciamo delle municipalizzate che vivono di biglietti della metropolitana, di biglietti dell'autobus? Chiudiamo anche quelle. Cosa facciamo degli investimenti per cui abbiamo riqualificato le aree urbane, a proposito di rigenerazione urbana, quindi le ex aree dismesse, industriali, piuttosto che i poli, diciamo, ferroviari dismessi? Quei soldi lì, boh. Cioè, voglio dire, un processo del genere si governa, non si dice: ragazzi, dai, questo è il futuro, si starà più a casa e si andrà meno in ufficio. Così, come se non cambiasse nulla, come se fosse, diciamo, semplicemente dire: oggi prendo la bici, oggi invece prendo l'autobus. E tra l'altro, chi ne guadagnerà di tutto questo? Secondo me è solo una persona, che si chiama Jeff Bezos, perché stando a casa collegato col computer per lavorare, tu non è che vai a mangiarti un panino al bar sotto a fare la spesa, no, tutto online. Infatti basta vedere chi è l'unico vincitore in questo momento, alla faccia di tanti ragionamenti fatti così un tanto al chilo, l'unico vincitore di questo modello obbligato di lavoro si chiama Amazon. Se va bene così, se vi piace così, si ragiona sulle cose, non si prende in maniera così apodittica. Dunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sì, poi ci sono anche tutti i temi legati appunto al fatto che uno possa sentirsi escluso attraverso lo smart working da vari processi decisionali interni, ma voglio dire, si ragiona di tutto, basta non prendere alla leggera, così come quando il ministro De Micheli scrive: beh, faremo una bella opera per collegare la Sicilia alla Calabria su ferro, su strade, con una pista ciclabile. Va bene, adesso andiamo sui mercati, iniziamo a fare i mercati e poi parliamo della vicenda Atlantia e anche del governo, del DL semplificazioni che arriva in Senato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sì, aggiungo un'altra cosa, perché adesso mi stanno veramente insultando. Qualcuno si è posto il problema di cosa capiterà al mondo della moda, ma la moda normale, non parlo dell'alta moda, parlo dei negozi di moda che vediamo in tutte le nostre città. Se qua con lo smart working non c'è più un incontro fisico, non c'è più un evento, non c'è più niente, è chiaro che crolla anche la moda, tranne quella che tu compri con Amazon. È sempre Bezos che non inquina, giustamente. Allora, andiamo andiamo sulla borsa, dai. Meglio un ambiente pulito, veramente tutto il resto non conta, insomma io, a me piace l'ambiente pulito, se però poi la pancia vuota è l'ambiente pulito, sai come dicevo una volta, no? Non si mangia aria. Per non parlare poi delle vere efficienze, nessuno ha mai misurato se lo smart working sta dando produttività, magari anche più alta, negli uffici pubblici non mi sembra, dai. Comunque, dai, andiamo sui mercati, adesso non ho voglia di parlare dello smart working adesso, vedremo se sarà un fuoco di paglia o qualcosa resterà, ma più flessibilità si può avere, l'importante è non prendere tutto com'è, il nuovo messia, il nuovo modello di sviluppo. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dunque, lasciamo stare Atlantia perché ne parliamo nella seconda ora, anche con te parleremo nella seconda ora perché praticamente manca un minuto. Dimmi il tono della giornata e poi ti rio dopo il GR24. Deboli tutte le borse, se ho ben visto. Sì, sì, è stata una giornata a due facce, mattinata positiva, poi tutto è peggiorato nel pomeriggio e le listine hanno chiuso sui minimi di giornata, Piazza Affari in calo dell'1,54%, a penalizzare gli indici è stata la brusca frenata registrata da Wall Street, il Dow Jones sta perdendo oltre il 2% e in generale la borsa americana sta accusando la flessione più marcata dalla fine di giugno, quindi da oltre due mesi, si è fermato oggi il rally del settore tecnologico, gli investitori stanno iniziando a mettere in dubbio l'adeguatezza delle attuali valutazioni dopo il recente rally, stanno spostando i portafogli su altri comparti, questo ha fatto appunto crollare le listine e di conseguenza anche tutte le borse europee. Allora, i singoli titoli dopo il GR24 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Paolo Paronetto. Al di là del tono debole di tutta la giornata, ricordo -1,5% Milano come Francoforte, e per quello che riguarda invece il Dow Jones adesso perde il 2%, è peggiorato ulteriormente l'indice americano. Oggi bene Exor più 1,80, Pirelli più 1,20%. E poi invece sul fronte opposto ST Microelectronics il 6,90 di calo, Atlante adesso ne parleremo 6%, di Assori meno 5,50, Fineco meno 4,70, come Nexi, Buzzi Unice meno 3,70, Prismian meno 3,5 come Banca Generali ed Amplifon. Poi ci sono anche i migliori e i peggiori che vanno commentati oggi, nel senso che Tiscali perde il 50% dopo la crescita molto forte di ieri, e devo dire che poi c'era stato anche un po' di movimento su Mediaset. Allora Paolo, Tiscali, così riprendiamo anche il ragionamento di ieri, e Mediaset. Diciamo che Tiscali si è in parte sgonfiata, ha perso il 49,9%, ma nell'ultima settimana poco più era arrivata a triplicare il proprio valore di borsa, un rialzo di oltre il 300%, in seguito all'accordo commerciale con TIM sulla fibra ottica e la possibilità in futuro di entrare nel capitale di FiberCorp, la newco della rete unica che dovrebbe riunire appunto le TLC del paese, quindi oggi complice anche il generale momento negativo sui tecnologici e sulle borse in generale, gli investitori sono passati in parte ai realisti. Poi citavi Mediaset. Mediaset alla fine ha chiuso un rialzo di oltre il 5%, c'è stata la sentenza della Corte Europea che ha sancito che le norme italiane che limitano la partecipazione di Vivendi al 10% del capitale non sono conformi al diritto europeo, e quindi diciamo una vittoria per Vivendi. Il mercato ora però si attende che questo spinga le parti, quindi Mediaset e i francesi, a sedersi una volta per tutte sul tavolo delle trattative per mettere fine alla querela che su diversi fronti li vede contrapposti ormai da anni. La stessa Mediaset inoltre, in seguito proprio alla sentenza, ha messo un comunicato dicendo che se cambieranno le norme italiane in materia di concentrazione tra TV e TLC, e la società guarderà con grande interesse ogni opportunità in materia di business TLC, a partire dagli sviluppi sulla rete unica, quindi potrebbe anche assicurarsi entrare nella partita della rete unica. Certo. Allora, l'altro caso di borsa, nel ringraziare Paolo Paronetto come già ieri, è Atlantia. Ieri aveva guadagnato più del 16%, oggi forti realizzi meno 6%, ma da questo punto di vista sembra addirittura d'arrivo, sembrerebbe addirittura d'arrivo l'accordo tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti per il riassetto di Autostrade per l'Italia. Allora, Atlantia ha l'88% di Autostrade per l'Italia, a sua volta Atlantia dentro ha il principale azionista di Atlantia è il gruppo Sintonia, quindi Benetton con il 30%. Se ho ben capito, ieri c'è stato il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti e oggi è quello di Atlantia. Allora, il CDA in realtà, chiedo venia, è quello di Atlantia di oggi. Ieri era stato invece, l'avevamo raccontato, l'incontro tra il numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, e quello di Atlantia, Carlo Bertazzo. Allora, da quello che si è capito, il progetto dovrebbe essere l'uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia all'88%, l'ipotesi di una prima cessione del 70%, uno scorporo di ASPI da Atlantia per una quota del 70% che andrebbe a confluire in una nuova società quotata e che a sua volta effettuerebbe un aumento di capitale da 6 miliardi di euro con Cassa Depositi e Prestiti e altri investitori. Parte di questa somma, questi 4 miliardi su 6, verrebbero utilizzati per ridurre il debito di Autostrade per l'Italia, mentre 2 miliardi servirebbero per comprare il restante 18% che resterebbe ancora in mano ad Atlantia. In questo modo l'operazione darebbe una valutazione iniziale di Autostrade per l'Italia intorno agli 11 miliardi, perché appunto tale è la valutazione complessiva. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Senti, due domande molto semplici. La prima, che molti si chiedono, ma insomma alla fine esiste la legge, per cui non puoi neanche pensare a un esproprio, l'abbiamo spiegato molte volte, ma alla fine di questa operazione, se valesse l'ipotesi che ho citato, sarebbe un'operazione conveniente per gli azionisti di Atlantia e quindi per la famiglia Benetton? Sarebbe un'operazione di mercato. Sulla convenienza molto dipenderà da quelle che saranno le cifre finali, che di fatto non sono ancora state decise, quindi molto dipenderà da quale sarà la valutazione finale di Autostrade. Parlare di convenienza magari è un po' complicato in questa fase. Di certo, terminata la scissione, terminato l'aumento di capitale, Edizione si ritroverà comunque in mano con una quota compresa tra l'11 e il 12% della nuova Autostrade Concessioni e Costruzioni, che è l'entità che nascerà una volta che verrà scissa Autostrade per l'Italia, e evidentemente nell'arco poi dei 12-18 mesi successivi avrà la possibilità di andare a realizzare sul mercato la vendita di quel pacchetto e quindi di conseguenza incassare qualcosa. Ancora una volta però molto dipenderà sia da quelli che saranno i valori di quotazione sia da quelli che saranno i valori di realizzo poi della vendita della quota. Di certo, come dire, qualcosa incasseranno. Altra domanda, resta però sul tappeto, questa è, se ho ben capito, l'ipotesi principale, resta sul tappeto anche l'ipotesi di invece di una che Atlantia vada a vendere la quota direttamente sul mercato? Allora, più che direttamente sul mercato, con un'asta potenzialmente. Sì, con un'asta volevo dire, sì, certo. Esatto. Si parla però, allo stato attuale è un'ipotesi secondaria. Mm-hmm. Resta però, come era stato a suo tempo previsto sia dall'accordo col governo, sia in un successivo comunicato di Atlantia diffuso a inizio agosto, se non erro il 4 o 5 agosto, l'ipotesi di vendere direttamente tutto il pacchetto dell'88% di Autostrade. È un'ipotesi secondaria, in quel caso evidentemente verrebbe valorizzata l'intera partecipazione, non essendoci aumento di capitale. A quel punto si aprirebbe un'asta competitiva, bisogna vedere in quanti si presenterebbero eventualmente alla partenza di questa procedura. Ultima domanda. Quali sono i nodi ancora da sciogliere? Se ho ben capito, per esempio, la manleva, ossia lo scudo legale che protegge i soci della nuova Autostrade per l'Italia da eventuali criticità, per esempio come è accaduto nel caso del crollo del Ponte Morandi, è un nodo sciolto o no? No, ci sono fondamentalmente ancora tre nodi che vanno sciolti. Il primo è quello che dicevi tu, quello della manleva. Il secondo è quello del piano economico-finanziario. Oggi il ministro De Micheli diceva che è stata mandata da Autostrada una nuova proposta su quella che è il nuovo accordo di concessione, su quelli che dovranno essere gli impegni di Autostrada in termini di investimenti e il ritorno in termini di tariffa. E il terzo nodo, che è quello collegato al PES, è la valutazione dell'asset. Allora, su valutazione dell'asset e PES sono due cose abbastanza collegate, però ipoteticamente l'intesa dovrebbe essere vicina. La stessa ministra ha detto di aver inviato una nuova proposta e Autostrade di averla recepita. Il tema della manleva è sul tavolo. Cassa Depositi e Prestiti chiede sostanzialmente di avere la manleva, ossia di essere tutelata nel momento in cui dovesse entrare come nuovo azionista di maggioranza nella nuova Autostrade, concessioni e costruzioni, perché dice evidentemente io entro in un asset ma non so e non conosco esattamente lo stato di salute di tutto quello che quest'asset controlla, ossia fondamentalmente buona parte dell'intera rete autostradale italiana. Allo stesso tempo però Aspi risponde non fa parte del mondo delle concessioni il riconoscimento di una manleva, quindi la cosa si potrebbe risolvere, ma anche su questo punto si sta discutendo, di vincolare l'intero accordo alla conclusione positiva di una due diligence, ossia CDP apre la due diligence una volta, cioè va a vedere cosa c'è dentro, esatto, va a vedere cosa c'è dentro, completa questo processo di analisi di tutto quello che c'è in pancia da Autostrade per l'Italia, e una volta completata questa cosa, se l'esito è positivo, allora si può procedere senza manleva. Chiaro, grazie anche a Laura Galvagni, e vedremo adesso quando questi nodi che tu citavi molto bene verranno risolti. Nel frattempo, a proposito di infrastrutture, non di autostrade basta, ma di infrastrutture, domani ed è stata messa la fiducia, va al Senato il DL Semplificazioni. 200 emendamenti approvati nelle commissioni affari costituzionali e lavori pubblici del Senato. L'oggetto più forte dello scontro all'interno della maggioranza ha riguardato soprattutto un tema che va sotto la voce della rigenerazione urbana, cioè la riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani. Allora, il DL Semplificazione, come dice il nome, dovrebbe servire a semplificare la parte burocratica negli appalti per le costruzioni, in vista anche per agganciare quindi i fondi pubblici che saranno attivi con il piano Italia Veloce, quello che ricordavo delle 100 opere, 130 opere commissariate e alcune opere definite prioritarie, ne abbiamo parlato due giorni fa. E da un lato, dall'altro sì, sono 130 opere programmi di intervento prioritari, di cui alcuni anche da commissariare. E dall'altro agganciare il recovery fund, cioè quando arriveranno i soldi l'anno prossimo europei per gli investimenti anche qui infrastrutturali, avere procedure più snelle. Che cosa, da quello che ho capito io, è passato? Allora, la disciplina speciale sugli appalti resterà in piedi per tutto il 2021, quindi non solo fino a luglio. Quindi il tetto per gli affidamenti diretti sarà di 150.000 euro, quindi senza gara. E poi riguarda pure la corsia preferenziale, le aree di crisi industriale complessa, quindi Taranto e Piombino, per fare due esempi. La pubblicazione dei bandi diventa obbligatoria sia per gli appalti sopra che sotto questa soglia. In questo modo, in caso di procedure ristrette, si apre la possibilità di candidatura anche per raggruppamenti di impresa. Poi c'erano altri elementi, l'edilizia sociale, basterà la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di edilizia che riguardino scuole, università, residenze per studenti, ospedali, strutture sportive di edilizia sociale. Un regime di semplificazione che varrà per i lavori che cominceranno entro il 2022 e riservato a investitori pubblici o istituzionali. Arriva la strada urbana ciclabile con limite di velocità 30 km orari, priorità ai ciclisti nella circolazione. La precedenza aspetterà bici e monopattini, e poi nascono anche le zone scolastiche urbane dove si può limitare la sosta e la circolazione dei veicoli. Le amministrazioni locali potranno dare la licenza di multare gli automobilisti anche ai propri dipendenti e agli addetti alla raccolta dei rifiuti. E ancora poi via libera allo stoccaggio di CO2 per il progetto ENI, ma la cosa dove si è avuto un maggior scontro è stata la rigenerazione urbana, ossia vengono da un lato sburocratizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione, che vengono equiparati a mere ristrutturazioni edilizie. Per le zone omogenee A, cioè i centri storici, restano però dei vincoli. L'EU, quindi la sinistra, ha spinto per alzare i livelli di salvaguardia, il PD era su posizioni opposte, si è trovata una mediazione per permettere di agire anche all'interno di queste aree, purché in linea con le indicazioni dei piani urbanistici comunali. Una soluzione che però non soddisfa tutti. A Roma, per esempio, la zona protetta, diciamo così, è particolarmente estesa. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, domani avete pubblicato in questi giorni tutti i dettagli del DL semplificazioni, che prevede anche meno rischi per i funzionari pubblici in tema di abuso d'ufficio e responsabilità erariale, appunto cantieri più rapidi e meno vincoli sulle ristrutturazioni e quant'altro. Però al di là del dettaglio tecnico, che comunque se vuoi commentare sei benvenuto, forse qui la cosa più importante è la nota politica. Cerco di spiegarmi, c'è stato un grosso scontro tra l'EU, PD, 5 Stelle su questo decreto e semplificazioni. Ecco, non vorrei che fosse di cattivo auspicio, lo dico non per fare l'uccello del malaugurio, ma per fare giornalista, verso il piatto grosso, e cioè quello che il governo deve presentare a metà ottobre, le linee guida su come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dal 2021 dall'Europa. Ma sì, assolutamente, nel senso che ci sono state degli strani ridisegni all'interno della maggioranza, di schieramenti che poi si sono ritrovati opposti su tematiche delicate come sono quelle appunto del concetto di rigenerazione urbana e di tutela dell'ambiente, perché poi sull'idea di non modificare sagome e volumi degli edifici all'interno del centro storico, poi con un concetto particolarmente allargato, si sono saldati insieme da una parte l'EU, quindi la sinistra con i 5 Stelle, versus PD Italia Viva, che erano più possibilisti e più riformisti da questo punto di vista. Quindi è stato abbastanza significativo anche quello che è accaduto per la norma che riguardava la costruzione degli stadi. Il primo firmatario dell'emendamento era Renzi, che si è trovato scoperto praticamente, perché poi l'emendamento è stato votato dal PD ma non dagli altri, e quindi è passato grazie ai voti della Lega. Quindi ecco, è evidente che non ci sono delle visioni politiche omogenee all'interno di questa maggioranza, e questo non è neanche una novità francamente, però rischiano di esasperarsi su tematiche molto rilevanti che hanno grossi impatti anche sulla programmazione dello sviluppo del nostro paese, perché parliamoci chiaro, l'unico sviluppo intelligente che può avere una gittata sul lungo periodo è proprio quello del rifare le città, rimetterle, diciamo, riammodernarle, renderle ecosostenibili, cablarle, renderle delle smart cities. Ecco, quello è una cosa di cui si parla troppo poco, ma che è uno dei grandissimi driver di sviluppo per gli investimenti nel nostro paese, per il nostro futuro. Se siamo caduti, diciamo così, su un tema che tutto sommato ha un orizzonte piccolo e riguarda un settore comunque gestibile e che non pone particolari problemi di programmazione e quant'altro, figuriamoci quali sono i rischi che corriamo nel dover mettere in campo il nostro recovery plan per intercettare appunto la cospicua dote che l'Europa ha deciso di affidarci con i recovery fund. È quello che preoccupa, la conferma ulteriore che non si creano schieramenti omogenei con capacità di prevedere nel lungo periodo programmazione intelligente degli investimenti e delle spese nel nostro paese, che ci possono far cambiare proprio faccia. Ecco, però una cosa, no, è chiara la nota politica, perché insomma non è stato un buon antipasto, un bel antipasto di quello che potrebbe capitare quando si andrà a discutere su quali opere prioritarie. C'è qualcuno che continua a scrivermi della De Micheli. Allora, la De Micheli, il ministro De Micheli ha twittato: abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria, per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile. Allora, tutti hanno preso in giro sulla pista ciclabile, i monopattini, da utilizzarsi con banchi a rotelle. Allora, mi sembra che il tema sia tutto tranne che un tema urgente. Adesso, per carità, ragioneremo anche sul ponte, sullo stretto. Però, per venire alla domanda a te, Alberto, l'obiettivo del DL semplificazione, che era appunto il suo titolo, cioè arrivare perlomeno a semplificare, secondo te, a partire dagli appalti sotto i 150.000 euro che potranno essere dati in affidamento diretto o le modifiche al codice penale in tema di abuso d'ufficio e responsabilità erariale, renderà più snelle poi le procedure d'appalto, sì o no? Cioè... No, da questo punto di vista credo che un progresso sia stato fatto. In effetti poi la soglia di cui parli tu è stata, con uno degli emendamenti che è passato, addirittura ribassata ulteriormente, perché adesso è a 75.000 euro. Mm. Quindi l'affidamento diretto riguarderà una platea di appalti ancora più ampia. Questo è positivo e sicuramente contribuirà a snellire l'iter. Così come è buona l'idea della pubblicità preventiva, che aiuterà la trasparenza poi nella gestione degli affidamenti e delle gare. Importante anche che abbiano ampliato la possibilità di far intervenire associazioni temporanee di imprese, in modo che non siano solo i grandi gruppi, player a fare proprio man bassa poi di tutti gli appalti. Queste cose sono passate, queste cose sicuramente aiuteranno ed erano nello spirito iniziale di questo provvedimento, che aveva come sottonome, appunto come sottodicitura, quello dell'idea dell'Italia degli appalti veloci. Da questo punto di vista qualche passo avanti penso sia stato fatto. Il problema è stato questa, tra l'altro nella parte finale della discussione, questo inciampo sull'idea della rigenerazione urbana, che però non è affatto una cosa secondaria, è una cosa fondamentale, perché se non si riesce ad intervenire su certi obbrobri che tutti vediamo peraltro anche nei centri storici delle nostre belle città, e semplificare l'abbattimento e la ricostruzione, diciamo, questo poi certo, è quello il tema. Vedremo adesso, domani c'è il voto al Senato, ma ho visto che ha messo la fiducia, quindi un voto, diciamo, sì, comunque scontato. Non ci dovrebbe essere problemi, scontato. Grazie anche a Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani in diretta appunto da workshop Ambrosetti di Cernobbio. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.